Ingrid. L'uomo l'aspettava davanti al portone, accanto ai gruppetti di avventori usciti a fumare dal bar a fianco. Le porse la mano e si presentò. Lucas. Piacere, rispose Ingrid ridacchiando. Puoi chiamarmi Johanna. L'uomo aggrottò la fronte. Posso? Ma sì, non è il mio vero nome. Apri o no? Lucas alzò le spalle, digitò il codice e le tenne aperta la porta. Ingrid era divertita dalla situazione, dall'avere lei il controllo. In ascensore lo squadrò spudoratamente dalla testa ai piedi e le piacque quello che vide. Lui ricambiò il suo sguardo sorridendo. «Sei bello, lo sai?» Lucas si mise a ridere. «Anche tu». L'appartamento era un piccolo trilocale al quarto piano, con le finestre che davano su Odengatan. Senza togliersi le scarpe, Ingrid si affacciò subito a una finestra. Lucas la seguì e le mise le mani sui fianchi. Ingrid era eccitata, ma sentiva che l'effetto della coca cominciava a diminuire. «Aspetta un momento», disse. «Dov'è il bagno?» Lui glielo indicò. Ingrid portò con sé la borsa, preparò un'altra striscia e la tirò. Subito il cuore iniziò a batterle più forte, la temperatura del corpo a salire. Lucas era ancora affacciato alla finestra. Lei si infilò tra lui e il davanzale interno e lo attirò a sé. Si baciarono. Sapeva di alcol. Gli aprì i jeans. Soppesò il suo sesso duro in mano. I respiri di lui diventavano sempre più pesanti. Giù in Odengatan un ubriacone si mise a gridare. Ingrid armeggiò con i propri vestiti fino a restare nuda, ma senza togliersi le scarpe con il tacco. Poi si piegò sulla finestra e inarcò la schiena.